Conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 30 di maggio 2015, San Giovanna d'Arco oggi, quindi è una santa di quelle che infiamma i paesi, li porta in battaglia, fa molto discutere e divide, sembrano quasi elezioni regionali che si tengono domani da un certo punto di vista. Allora, innanzitutto un saluto, un ringraziamento caro da tutti i compari dei Conti della Belva, oltre a Oscar c'è Carlo Alberto Carnevale Maffè, Renato Cifarelli e Mario Seminiero ci raggiungerà tra poco collegato per telefono. Ragazzi, questa è una puntata straordinaria per i Conti della Belva perché, come tutta la 24 in questi giorni, noi trasmettiamo in diretta da Trento, dal Festival dell'Economia, dalle rive dell'Adige. Dalle rive dell'Adige siamo in partibus infidelium, perché in realtà questo meraviglioso Festival d'Economia è giunto alla sua 10ª edizione, diciamo, è un po' un luogo nel quale si concentra un pensiero economico dominante che non è esattamente Carlo Alberto No. Qui, come dire, vedo che sulla riva sinistra dell'Adige ci sono dei depositi morenici, se posso dire. Comunque, Tito Boeri, oltre che dar voce alla voce.it Info, uno degli aggregatori di pensiero economico keynesiano più forti in Italia nell'orientare il dibattito pubblico, e oltre ad essere presidente dell'INPS eccetera eccetera, è arrivato a questo successo, e quindi noi siamo qui dal Festival dell'Economia e in realtà proponiamo ai nostri ascoltatori oggi alcuni temi che sono centrali qua nel dibattito. Quindi in questi giorni si parlerà moltissimo di diseguaglianza, di Europa eccetera eccetera, di mobilità sociale, e quindi noi tenteremo su questo di trascinarci dietro le vostre opinioni, ma ve lo dico subito: all'800240024 e per le opinioni al 349-238-6666, nonché con le opinioni sull'account Twitter Conti della Belva. La prima domanda che vi facciamo per intervenire è: che cosa ne pensate della lista degli impresentabili? Sì. Diteci un po' come la prendete. Intanto comincio io a dirtelo, Oscar. Certo. No, io sai che c'è, che a me questi comitati di salute pubblica che danno le patentine di presentabilità, francamente, proprio non li sopporto. Se mi ricordano il dipartimento pre-crime di quel bel film Minority Report, dove c'era il knowledge anticipatorio. Senti, a me queste madrasse dell'etica istituzionale che dicono tu sei bravo, sì, queste immacolate concezioni della politica che ti benedicono o ti maledicono, francamente non mi piacciono. Io devo dire la verità, anche io sono un garantista, però la cosa che a mio occhio è più rilevante è la violenza di questo regolamento di conti che nei confronti delle fazioni del PD ha assunto delle proporzioni mai viste nella storia. Perché politica. Tale è, diciamoci, no? È un regolamento, è una faida interna usata per stabilire un po' di conti. E dopodiché, cari ragazzi in ascolto, lungi da me difendere i partiti che, è vero, mettono la lista impresentabili di ogni titolo, non tanto dal punto di vista penale quanto politico. Il trasformismo che c'è nella lista a destra e a sinistra, in Campania, in Puglia soprattutto, ma non solo lì, è pazzesco, cioè non ha veramente precedenti. Ma quale prima repubblica? Non si era mai visto degli ex fascisti andare nella lista di collegamento di presidenti, candidati del PD, e gente fare invece la scelta opposta. Cioè, non stiamo difendendo questa roba qua. Ma posso leggervi solo, cari ascoltatori, la cosa che mi ha colpito di più nei commenti questa mattina sulla stampa, che è quella di Massimo Gramellini sulla stampa, e leggo testualmente che cosa scrive Gramellini. Se vince 4-3 Renzi, lasciando per strada anche Liguria e Campania, il mito dell'imbattibile si incrina e i tanti servi che gli sbavano dietro senza amarlo dentro e fuori il partito cominceranno con identico zelo a mettere in dubbio il carisma e tradirlo. Allora, il tono di Gramellini, che di solito scrive delle cose abbastanza zuccherose eccetera eccetera, che descrive i servi sbavanti e il regolamento di conti, fotografa quello che c'è da diversi punti di vista sui giornali di oggi. Quindi diteci come la pensate su questo, e poi vedrete che c'è un argomento serio su cui incardinare questo approfondimento della vostra opinione. Comunque, perché prendiamo atto che la politica in Italia è uno strumento di mobilità sociale, anche per mobilità di lista più che mobilità sociale, direi. È anche penitenziaria, devo dire la verità. Ma i temi di cui ci occupiamo oggi, allora, innanzitutto un blocco su un grande tema su cui si discute moltissimo in questo festival qua: venerano Piketty, ci sarà un grande dibattito con Piketty, la diseguaglianza, più Stato, lo Stato come vera risposta alla diseguaglianza, la TAB, il veleno dell'Occidente, dell'Italia e così via. Allora, vi chiediamo di darci un'opinione su questo, perché la nostra opinione è un po' diversa. Noi non siamo d'accordo, lo spiegheremo nel primo blocco, sulla tesi fondamentale di Piketty, e cioè che viviamo in un mondo in cui la parte occidentale ha questa diseguaglianza che diventa sempre più asintotica. perché vi inviteremo a riflettere su alcuni dati, sul fatto che la diseguaglianza nel mondo è diminuita, non è aumentata. Il coefficiente di Gini, che misura la distribuzione dei redditi nel nostro paese, non è a livelli da paesi in cui c'è un verissimo e serissimo, molto più quantitativamente misurato, problema di diseguaglianza e così via. Per noi quello che conta è l'ascensore sociale, la mobilità sociale nel nostro paese è proprio lo Stato che ha il 51% del PIL, che è il peggior nemico della mobilità sociale. Allora, primo blocco, o amico se sei dentro. Ecco, amico se sei dentro, esatto, e questo spiega una mobilità forse sociale interna allo Stato ma non esterna alla società. Questo forse spiega perché ci sono 2 milioni che campano di politica o nomine politiche nel nostro paese. È l'unico ascensore sociale a quanto pare che funziona, quindi il primo blocco sarà su questo. Poi ce n'è un altro che è relativo, appunto, tocca il tema degli impresentabili. Perché? Perché noi ci poniamo il problema di una giustizia che nel nostro paese ormai assume decisioni di sempre maggior impatto nella vita pubblica, e lo fa dichiarando che il suo criterio è quello di non guardare i dati economici e di rimanere indifferente alle conseguenze. È successo alla Corte Costituzionale con le pensioni, questa settimana è successo con una sentenza su Uber, di cui parleremo nell'ultima parte della trasmissione, succede con la Corte di Cassazione 4 giorni prima del voto su chi si deve pronunciare sulle decadenze della legge Severino, è successo sull'ILVA, come ovvio. Allora, è giusto così? La giustizia non deve guardare le conseguenze delle sue decisioni? Oppure bisogna forse mettere a posto qualche cosa anche nella giustizia e avere qualche giudice che, se parla di economia e di imprese, magari ne sa anche qualche cosa e non può felicemente dirci, come il Presidente della Corte Costituzionale, io me ne frego dei dati e la mia decisione prescinde dalle conseguenze. Ecco, e poi chiuderemo proprio con una riflessione sul bando dato in tutta Italia dai giudici di Milano a Uber Pop. Siete convinti che sia giusto così? Siete convinti davvero che Uber Pop faccia concorrenza ai taxi e quindi, siccome i taxi hanno la licenza, vanno preservati? Oppure non stiamo parlando di un'offerta completamente diversa da quella dei taxi? La colpa è della politica, noi non ce la prendiamo con i giudici. La politica dovrebbe capire che bisogna aprire e regolamentare, ma in maniera molto light, questo nuovo enorme segmento di offerta di trasporto pubblico della sharing economy, che non è concorrenza ai taxi, è un'altra cosa con altri principi. E se volete sapere la mia proposta è che nel fare questo è giusto anche tenere in considerazione, cari amici tassisti, so che ci ascoltate, il valore residuo da ammortizzare della licenza per comprare la quale i tassisti sono molto indebitati, e per un intervento di liberalizzazione piena io sono anche prontissimo a riconoscere che quella roba va riconosciuta e va in qualche maniera aiutata, ma nell'ambito di un'apertura totale, non del bando che ci fa rimanere prigionieri nel Medioevo. Questi sono i temi di cui parliamo in questa trasmissione. Ci restano pochi secondi a testa per dire ciascuno che cosa l'ha fatto incazzare di più al di là di questo in settimana. A te, Mario. A me? Io ho avuto la conferma che il calcio è una cosa che dalla quale mi tengo lontano, perché non l'ho mai amato particolarmente per le blatte che ci sono in giro. Ma tu pensa cosa saranno i prossimi mondiali in Russia? Io già vedo blatter con Putin che entrano sulla biga negli stadi, ma valanghe di pretoriani, una roba. E a te? È ancora il dibattito sul PIL, ma non voglio rubare il tema Mario. Ce ne occupiamo subito. Niente, mi ha fatto arrabbiare ancora una volta che la propaganda sul PIL non discute dei numeri reali, non disaggrega quando sono arrivati i numeri disaggregati, ed era il caso di capire. Esattamente la prima cosa di cui ci occupiamo adesso. Lasciatemi dire che la cosa che mi ha fatto più incazzare in settimana è il giudice del lavoro di Treviso, che ha riassunto nella scuola un dirigente scolastico di 52 anni che aveva rubato 197.000 euro alle scuole che amministrava, aveva rubati, se li era presi. Si è beccato una condanna penale, è stato per questo licenziato, eppure il giudice del lavoro lo ha reintegrato e lo Stato gli dovrà ridare anche i soldi e gli stipendi di 2 anni. Che schifo! Questa è la mia opinione, ma ci sentiamo tra un minuto. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta della belva. Eccoci tornati in diretta, cari ascoltatori e cari anche che dietro un vetro qua, siamo in una specie di un acquario a Piazza Passi a Trento, però voglio dire siamo un po' vincolati perché non riusciamo a comunicare direttamente con chi ci guarda da fuori, quindi mi sento un po' un pesce nell'acquario, perché siamo in diretta al Festival dell'Economia di Trento appunto, e cominciamo come sempre la nostra trasmissione dopo aver salutato di nuovo i nostri ascoltatori. Buongiorno, Renato Cifarelli. Caro Alberto Carnevale Maffè. E come avrete capito Oscar, ma ci ha raggiunto anche il nostro co-compare Mario Seminerio. Ciao Mario. Ciao a tutti, sto buongiorno. Una crisi c'è sempre, ogni volta che qualcosa non va. E è partita la musica esattamente mentre Mario ci salutava, perché come sapete il nostro rituale, primo appuntamento in ogni trasmissione dei Conti della Belva, è quello con Seminario in crisi. No, a che punto sta la crisi italiana e a che punto la crisi italiana. Questa settimana abbiamo avuto l'aggiornamento definitivo del dato dell'Istat, della valutazione del primo trimestre del PIL. Mario, com'è andato questo più 0,3% sul congiunturale e più 0,1% sull'anno tendenziale? Tu che dici? Ma io mi aspettavo che dalla disaggregazione, quindi dalla stima finale, uscisse qualcosa di sfizioso, e la mia attesa non è stata delusa, nel senso che disaggregando si vede che i consumi vanno ancora male, perché calano nel trimestre dello 0,1%. Il commercio estero va ancora male, non tanto perché c'è stato un forte aumento di importazioni e tra poco vedremo il perché, quanto perché le esportazioni sono andate a crescita zero. E quindi questo non è certamente un dato interessante né positivo, soprattutto nel momento in cui l'euro ha beneficiato e sta beneficiando del suo forte deprezzamento nei confronti del dollaro. Quindi almeno per il commercio extra UE c'è qualcosa su cui riflettere. La maggiore anomalia è che abbiamo avuto un enorme contributo delle scorte. Le scorte hanno fatto lo 0,5% di questo 0,3%. Quindi diciamo, qui ci sarebbe da preoccuparsi, se non fosse che c'è una spiegazione che è un po' meno preoccupante, ed è la voce investimenti, no? Investimenti molto bene, investimenti fissi lordi più 0,3% nel trimestre, però mentre macchinari e attrezzature sono assolutamente deludenti, perché perdono lo 0,9%, dimostrando che non c'è un vero rimbalzo dell'attività produttiva di investimento, e questo è importante da sottolineare, sì. Mentre le costruzioni sono andate benino, crescendo nel trimestre dello 0,5%, e vorrei anche vedere, diciamo, dopo trimestri passati a inabissarsi, la condizione drammatica delle costruzioni in Italia è nota più o meno a tutti, ma quello che è stato un boom, che praticamente ha fatto ha trainato al rialzo gli investimenti e per questa via il dato totale di PIL, è stata la produzione dei mezzi di trasporto, che sono cresciute di quasi il 29% nel trimestre. Quindi cosa vuol dire? Che la produzione dei veicoli praticamente nel primo trimestre ha fatto il PIL da sola, e questo è da ricondurre quasi esclusivamente a quello che è il riavvio, la ripartenza produttiva dei siti di Fiat Chrysler Automobile in Italia. Quindi il PIL del primo trimestre l'ha fatto Marchionne, sì. Esatto, come hai scritto tu, Fiat PIL, si ha fatto il PIL, l'hanno fatto i ragazzi di Melfi. È un PIL made in Fiat, diciamo, per cui se da un lato questo conferma quello che sappiamo da sempre, cioè che l'industria dell'auto ci serve per tenere alta la produzione industriale, quindi per stimolare entro dati limiti l'indotto e quant'altro, e quando l'abbiamo persa, tra virgolette, ci siamo accorti dei dati drammatici, però c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che in questo momento non c'è nulla che faccia pensare ad una rivitalizzazione dell'attività manifatturiera al di fuori di questo contesto ristretto e limitato. Per cui tutto il trionfalismo che io ho letto e sentito ieri, che ancora oggi si riverbera sui giornali, mi sembra abbastanza superficiale e necessita un maggiore approfondimento, perché cioè, veramente stiamo festeggiando, a me fa piacere per FCA e quant'altro e anche per il paese, però ci vuole un minimo di grano salis. Soprattutto il dato sugli investimenti, quello che manifesta è che generalmente le imprese restano molto scettiche, cioè tengono la borsa chiusa, sul fatto che ci sia davvero una prospettiva a breve tale da portarli a cambiare idea sull'investimento. Cioè questo significa che per esempio nella ripresa del tasso di utilizzo degli impianti facciamo qualche passo avanti, ma rimane una capacità inutilizzata molto ampia, non è più un terzo come è stato nei tempi peggiori della crisi, ma insomma siamo a 30 punti di capacità inutilizzata degli impianti. Questo freno degli investimenti, cari ascoltatori, è uno dei segnali purtroppo più preoccupanti, certo. Perché fino a che noi non sblocchiamo la leva degli investimenti, la prospettiva di medio e lungo periodo resta appesa a delle cose abbastanza... Il che vuol dire, Mario, anche che la disoccupazione con questi segnali di scarsa propensione all'investimento non può rimbalzare molto, perché se le imprese non investono in attrezzature fisse è improbabile che poi investano in lavoro. Cosa ne dici? Beh, infatti abbiamo, come diceva Oscar e come confermi tu, il tasso di inutilizzo della capacità produttiva è drammaticamente elevato. Chiaramente sarà una situazione a macchia di leopardo. Sulla domanda interna, ancora una volta, siamo agonizzanti. Sull'export sembriamo avviati alla convalescenza, però, ripeto, non si vedono proprio in queste settimane, in questi mesi, grandi risultati in senso di sviluppo del commercio estero, il tutto malgrado le condizioni eccezionalmente positive e non ripetibili dell'andamento del dollaro. Io però evidenzierei un altro paio di punti che sono anche spunti, se vogliamo. Se noi consideriamo la domanda interna all'interno del PIL italiano, cioè praticamente la somma di consumi e investimenti, vediamo che nel primo trimestre di quest'anno è cresciuta dello 0,2%. E nel quarto trimestre del 2014 era cresciuta dello 0,2%, per cui c'è assoluta stabilità e staticità su valori eccezionalmente limitati e contenuti. Quindi se noi depuriamo questo dato da scorte e commercio estero, vediamo che la domanda interna italiana continua ad essere estremamente debole. Un altro punto da evidenziare è che abbiamo avuto anche il dato sull'inflazione ieri. Allora, vediamo, l'inflazione tendenziale core, cioè quella al netto delle componenti volatili di alimentari ed energia, che è rimbalzata da più 0,3 a più 0,6, per cui se da un lato questo ci indica che la deflazione è uno spettro, ammesso che lo sia mai stato completamente, che sembra scomparire, questo però è anche il preavviso che presto le sedicenti associazioni dei consumatori cominceranno a dire che gli italiani stanno venendo impoveriti dall'inflazione. Esatto, preparatevi, diciamo che questo sarà il prossimo refrain che ascolteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi ha ragione la Corte Costituzionale a dire che bisogna assolutamente integrare le pensioni. Per favore, non diciamo no, scusate, secondo me ha ragione la Corte Costituzionale quando dice che bisogna fregarsene dei dati economici, perché mi pare che lo facciano tutti in questo momento in Italia, lo fanno molti commentatori, lo fanno politici, lo fanno i giudici in primis. Ti sei dimenticato però di dire che abbiamo superato gli Stati Uniti come PIL. Abbiamo eguagliato la Germania, ha superato gli Stati Uniti, praticamente abbiamo un grande avvenire, io temo dietro le spalle, però vediamo come va a finire, ecco. Ci sono quelli che hanno visto un clamoroso boom dell'agricoltura, è vero, tutti alla zappa. Sono tutto un paese di braccia rubate all'agricoltura, soprattutto considerando che il valore aggiunto dell'agricoltura è ferocemente volatile da un trimestre all'altro per evidenti motivi e non si riesce a destagionalizzare. Poi io vorrei capire cosa è successo nel primo trimestre 2015 per avere determinato un boom assolutamente, che qualcuno crede strutturale, nel valore aggiunto dell'agricoltura, e poi guardate quanto pesa l'agricoltura sul valore aggiunto totale italiano e capirete che forse a volte chiudersi in un dignitoso silenzio è meglio che lanciare agenzie come dei discoboli olimpionici. Allora, osservazione a latere rispetto alle considerazioni giustissime che facevi sulla deflazione e l'inflazione. Poiché uno dei temi di questa settimana è stato il fatto che Renzi è andato appunto a Melfi a beccarsi il sostegno di Marchionne, a ricambiarlo, e non a Confindustria, una osservazione che facciamo a chi ci ascolta: con questi andamenti di questi ultimo anno e mezzo della deflazione, come è evidente, i vecchi contratti nazionali non si rinnovano, perché bisognerebbe entrare in un mondo nel quale i sindacati accettassero l'idea di restituire dei soldi, cosa che naturalmente è abbastanza inipotizzabile. Motivo per il quale questa settimana, invece di fare gli articoli su Renzi va di qua o Renzi va di là, l'argomento di fondo era: bisogna cambiare il modo con cui si fanno i contratti, perché con inflazione zero, siccome ovviamente chiedere i soldi dietro ai lavoratori è un po' complicato, il problema è che solo con contratti aziendali nelle singole aziende si possono seguire le curve della domanda e quindi fare gli accordi su come si utilizzano gli impianti, i turni, gli orari, stabilire una parte prevalente del salario nelle aziende rispetto al minimo che deve restare il contratto nazionale e così via. Guardate che altrimenti i contratti non si fanno. Questo è d'altra parte la rigidità fondo. Dei salari nominali è stato uno dei motivi per cui l'inflazione ha un tasso target del 2%, che almeno un po' di aggiustamenti sono ammessi nel modello macroeconomico. Purtroppo con l'inflazione allo zero o 0, i tassi nominali non riescono a essere aggiornati. Però i contratti aziendali significa cambiare come sono organizzati i sindacati, perché dovrebbero valere di più i sindacalisti delle aziende e meno gli specialisti nazionali dei contratti, ma la stessa cosa, caro Renato, vale per Confindustria, perché adottare questa strada significa che non comandano più le federmeccaniche verticali, il direttore generale di Federmeccanica, cioè tutti i sacerdoti del contratto nazionale. Anche le imprese, lo dico a te che sei imprenditore, devono cambiare la testa per il contratto aziendale, così o no? Devono assolutamente cambiare la testa. Il problema è fargliela cambiare. Ecco, perché, vabbè, ci sono tanti metodi. Noi non siamo per le lame che fanno cambiare la testa. No, però c'è da dire che il contesto geografico, quello settoriale, non sono i modelli economici dominanti ormai per stabilire il costo del lavoro. Bisogna dirlo. E purtroppo tutto il modello organizzativo di Confindustria e dei sindacati è invece costruito su base geografica e settoriale. Mi dispiace, ma è un modello che non ha più senso. Ma non ha più senso neanche dal punto di vista rappresentativo, perché una volta aveva senso. Oggi ha senso fare un modello rappresentativo sul valore aggiunto, quindi sulle filiere di valore aggiunto, che sono completamente cambiate, perché non sono più quelle di una volta. Una volta c'era il distretto, quindi tutti quelli del distretto erano i fornitori delle aziende del distretto e tutte queste cose qua. Oggi tu hai fornitori in tutto il mondo. Cara Confindustria editrice, invece di protestare perché ti stiamo criticando, prendici come consulenti per fare la riforma interna. Vabbè, che forse sarebbe una bella idea. Se non altro non mi possono più buttare fuori. No, non ti devono buttare fuori. Allora, noi intanto ringraziamo Mario e rapidissimamente già sentiamo qualche nostro ascoltatore, per esempio Angelo dalla provincia di Asti. Angelo. Pronto, buongiorno. Pronto. Allora, buongiorno. Lei vuole dire la sua sulla lista degli impresentabili. Ma più che sulla lista degli impresentabili, io volevo dire qualcosa su come si sta riducendo il PD. Cioè, sì. Io sono fermamente contrario alla posizione dei vari gufi, da Civati alla Toscana lì, non mi viene neanche più il nome. La Bindi e compagnia bella. Premetto, io ho votato per Renzi tappandomi il naso perché sono un vecchio comunista, dunque inutile che stiamo a fare tutta la storia, però temo che questo partito è finito in mano a dei funzionari di partito, a delle persone povere di spirito che non riescono a analizzare la realtà e i tempi che cambiano. Le do solo un esempio. Sì. Negli anni 70 io ero delegato in una fabbrica e la mia fabbrica aveva dei problemi per delle consegne, facevamo scioperi a tutta forza. Io andrai alla Camera del Lavoro dove c'era un certo Pugno, lei sicuramente sa chi è. Come no? Come ecco, no? E gli dissi: senti, noi qui continuiamo con gli scioperi, a vada via il Cris azienda. Allora lui mi ha detto, va bene, fallo anche duele, e dissi: sì, mi arrivano gli esaltati, mi fanno un culo così. E lui mi dice: no, vai tranquillo, fai così. E voilà. Dunque, gente così non c'è più in questo partito, sono solo, cioè il dramma del PD, e per me è veramente una sofferenza, è che non ci sono più persone che vedono al di là del proprio naso, ci sono solo dei carrieristi che pensano alla loro carriera e basta, perché ecco, cioè forse l'enfasi intorno alla gestione del potere, per la gestione del potere, con un trasformismo che non ha precedenti nella formazione delle liste e delle collegate, effettivamente descrive delle coordinate politiche nella leadership del PD attuale che sono solo molto diverse dalla sua storia, sono discutibili in sé e per sé rispetto a qualunque progetto identitario. Questo eticamente per un vecchio comunista come me, sono delle cose intollerabili, difatti io non... Ma Angelo, so tu continuerai a votarli o no? Attualmente continuerai a votarli o no? Beh, sono dibattuto, non lo so, la mia disciplina di comunista è votarli, però stanno combinando così di quelle tante che sono veramente penosi, mi fanno pena. Grazie Angelo di questa testimonianza, perché sofferta e sentita. Grazie Angelo, noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della la belva. Eccoci qui tornati in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, i Conti della Belva, i compari vi salutano. Carlo Alberto. Renato. E Oscar Giannino. Mario ci ha salutato dopo averci illuminato sulla lettura del dato trimestrale assestato da parte dell'Istat. Come avete visto, poco di cui godere davvero. E il PIL è made in fiat, anzi a Melfi, per tutto il resto siamo ancora con il sedere per terra. Ma entriamo in uno dei punti nodali del dibattito qui a Trento, che riguarda appunto la diseguaglianza dei redditi. E Trento, diciamo, come si vede dal numero di dibattiti su questo, dal fatto dello spettacolo di Bergonzoni ieri sera, dalle parole che ha pronunciato il premio Nobel Stiglitz ieri pomeriggio qua a Trento, convinta di una tesi, la tesi del grande libro lanciato l'anno scorso con enorme successo nei paesi avanzati di Thomas Piketty, economista francese che ha scritto questo Capitale del XXI secolo, riproponendo una tesi ricardiana, come dico io, cioè lui vuol far tornare il mondo dell'economia ai tempi di David Ricardo, e quindi quando il grande problema era la disparità del valore della terra di fronte all'effetto scarsità della crescita della popolazione. Allo stesso maniera lui argomenta che questa concentrazione del patrimonio nell'1% nei paesi avanzati è il grande freno. La sua risposta è che bisogna quindi fare una grande levata di tasse patrimoniali internazionali e in ogni singolo paese. Lo Stato è la risposta per Thomas Piketty. Quando uscì il libro, lo abbiamo messo, lo trovate sulla pagina dei Conti della Belva sul sito di Radio 24, io naturalmente l'ho letto, è un librone, ci ho messo il mio tempo perché erano 800 pagine la versione inglese, e scrissi una recensione, l'ho riletta adesso, a distanza di un anno non cambierei assolutamente nulla, nel quale contestavo il fatto che secondo me se uno vuole fare una serie secolare di 200 anni di dati sulla diseguaglianza nel mondo, deve guardare al mondo. Primo, lui non lo fa. Nel mondo la diseguaglianza è fortissimamente attenuata. In questi ultimi 20 anni noi abbiamo strappato dalla mera economia di sussistenza più centinaia di milioni di abitanti nel pianeta Terra di quanto non fosse capitato in tutti i secoli precedenti. A. Poi, B. Conta davvero il coefficiente di Gini, cioè quello che misura la dispersione dei redditi, virgola, quello italiano 0,32 non è affatto tra i più elevati tra i paesi avanzati, virgola, ed è soprattutto peggiorato negli anni fino al 2005, non dopo, quindi non è vero che c'è la fortissima accelerazione della crisi, virgola, ma conta più il coefficiente di Gini o conta di più invece la mobilità sociale e reddituale, cioè il fatto che chi nasce povero nel suo arco di vita non deve morire povero? La mia risposta liberale è che conta di più la seconda. Però qui sono tutti convinti che invece la risposta sia la redistribuzione dello Stato. E attenzione, Stiglitz ha detto ieri, proprio qui, caro Alberto e Renato, che l'Italia insieme agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna sono i paesi con la più bassa mobilità sociale in questi anni, però nel dirlo si autocontraddice, perché se avviene in paesi a fortissimo Stato, oltre il 50% del PIL come da noi, la risposta non può essere lo Stato. Da noi è lo Stato che non fa funzionare la mobilità sociale, non lo fa con la formazione pubblica, con la scuola, con l'università, non lo fa per tipo di welfare orientato sulle vecchie generazioni, che sono quelle col segno più di avvaloramento dei redditi dall'inizio degli anni 90, più 18% gli over 55, meno 15%. Quello l'aumenta, semmai. Stiamo parlando di un paese in cui lo Stato è il problema, non la soluzione. Però questa è la mia opinione, e quindi siccome la mia opinione conta assolutamente zero, nel mentre sentiamo la vostra abbiamo degli ospiti con cui parlarne, e abbiamo chiesto per argomentare insieme a noi a due economisti qual è la loro opinione intorno a questo tema della diseguaglianza. Abbiamo innanzitutto Andrea Festa, che è economista collaboratore della Voce.info. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. E Enrico Colombatto, che insegna politica economica all'Università di Torino. Buongiorno professor Colombatto. Buongiorno a voi. Allora, Andrea Festa, lei come la pensa sulla lettura di Piketty e di Stiglitz? È lo Stato la risposta a questo problema? E nell'inquadramento dei dati è giusto non guardare a quelli globali? Guardi, per quanto riguarda, faccio riferimento ai dati che ha prima citato sull'indice di Gini, che in pratica è un indicatore che all'aumentare del valore verso la cifra di 1 vuol dire che tutto il reddito è concentrato in una sola famiglia, in una sola persona. Ciò che può allarmare non è tanto il suo valore, che è più o meno in media rispetto alla media OCSE, ma quanto il suo incremento che è avvenuto in pratica in tutti i paesi avanzati, ed è molto elevato anche in parecchi paesi del continente americano. questa cosa si traduce perlomeno in Italia in nella realtà, nello stato di fatto, che il 10% delle famiglie più ricche possiede il 24% del reddito a fronte del 2,2% delle famiglie che fanno parte del 10% più povere, ovvero possiedono 11 volte il reddito delle famiglie più ricche. Il problema può essere soltanto se questo trend continua a confermarsi, se questa divaricazione tra le famiglie più ricche e le famiglie più povere può continuare, può incidere veramente sulle opportunità di mobilità sociale, come ha detto lei, per quanto riguarda soprattutto le classi più svantaggiate, come possono essere i giovani, come possono essere le donne, come possono essere lavoratori che fanno parte del mezzogiorno di sale, se vogliamo guardare ai dati più italiani. Perché un altro dato che volevo ricordare, che magari può preoccupare un po', è il tasso di povertà relativa, che negli ultimi anni è comunque aumentato ed ha raggiunto la doppia cifra nel 2007 ed è tendenzialmente sempre in aumento, è arrivato al 12,7% nell'ultimo dato disponibile. E la cosa più preoccupante è che se andiamo a guardare al tasso di povertà intragruppo, il tasso di povertà delle persone giovani, ossia dei giovani fino a 18 anni, raggiunge oggi in Italia il 17%, mentre delle persone più anziane oltre 65 anni del 9,3%. E il tasso di povertà relativa ancorato al 2005, quindi a un periodo anticrisi, è ancora più esplosivo. Nel 2007 era 10,7, adesso è arrivato a 14,9. Questi qua io direi che sono i dati da ragionare, oltre che l'opinione di Pinchetti sulla tassazione, che per quanto mi riguarda io sarei più magari un po' della distribuzione è anche giusta, soprattutto per quanto riguarda non tanto il reddito ma quanto riguarda la ricchezza, cioè il patrimonio accumulato nel corso dei decenni delle famiglie più ricche, però potrebbero essere messe in piedi, potrebbero essere perseguite politiche o a costo zero o meno impattante a livello di fiscalità, soprattutto in un paese come il nostro, dove A, la tassazione è elevata ed è in dubbio, B, è spesa spesse volte male. Però mentre a me pare, e qui poi mi taccio perché do la parola agli altri e sentiamo il professor Colombato, noi andiamo avanti anche nel blocco successivo su questo, mentre a me pare individuabile con chiarezza nell'andamento e nella distribuzione dei redditi italiani la fortissima prevalenza di un problema geografico e poi un fortissimo problema generazionale, stenterei a identificare in questo un meccanismo unitario che Piketty riduce alla formuletta, perché il tasso di rendimento del capitale è sempre superiore oramai nei paesi sviluppati in questi anni di crisi ancora di più al tasso di aumento del reddito, cioè perché R è superiore di G, come dice, perché se andiamo a vedere l'effetto di questi anni nasce dal fatto che noi abbiamo in Lombardia ancora oggi più di 20.000 euro di reddito pro capite medio e abbiamo quattro regioni al sud in cui si stenta ad arrivare a 12.000 euro. Allora, quella è un'enorme cosa che però appartiene alla storia unitaria mancata del nostro paese. E poi ripeto, se guardiamo la cosa tra generazioni, allora dobbiamo ricostruire le regole su come mettiamo la gente al lavoro, come la mandiamo in pensione. Non dobbiamo credere all'effetto di staffetta generazionale, ma dobbiamo imparare a pesare diversamente gli incentivi e i disincentivi. Magari però mi sbaglio, e allora sul fatto che probabilmente mi sbaglio sentiamo come la pensano i miei due compari del professor Colombato, ma tra un minuto. Monge, alimenti naturali per cani e gatti con tanta carne fresca italiana, vi presenta della belva. Eccoci qui tornati in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, i compari dei conti della belva. Caro Alberto, Renato e Oscar, abbiamo sentito l'opinione del professor Andrea Festa, economista, intorno ai temi della diseguaglianza. Io ho ricordato in sintesi, sicuramente una sintesi di parte, il tema centrale su cui si dibatte qui a Trento, quello del libro di Piketty sul capitale del XXI secolo. Le mie critiche, io rimango un liberale di questo tradizionale, cioè insomma von Humboldt che dice che la vera libertà è la libertà di essere diseguali. Però naturalmente bisogna interrogarsi sugli andamenti della diseguaglianza nel nostro paese, nei paesi avanzati. E siccome oggi è San Giovanna d'Arco, sentiamo la San Giovanna d'Arco italiana per definizione sui temi della diseguaglianza, Landini. È che noi siamo di fronte al fatto che c'è stata in questi anni una redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora che non ha precedenti e un aumento delle diseguaglianze sociali che non hanno precedenti. Allora, il problema è che imposto da Landini, la tassazione sul lavoro e sull'impresa in Italia, ragazzi, è molto alta, però la redistribuzione negativa anche in quel caso l'ha fatta lo Stato, Carlo Alberto, non è che l'ha fatto il mercato. E siamo di fronte a una situazione paradossale in cui, se posso dire, la vera disuguaglianza non è infranazionale, ma è intergenerazionale. Ti faccio vedere due dati. Negli ultimi 20 anni il rapporto fra la ricchezza netta e il reddito disponibile per l'età del capofamiglia è passato da 4 a 8 per gli ultra 65 anni e da 1 a 0,5 per i trentenni, mio cioè Dio. Si è dimezzato per i giovani e si è raddoppiato per gli anziani. Abbiamo creato un paese di anziani protetti, ben patrimonializzati, garantiti con tutti i diritti, come dire, acquisiti e non negoziabili, e i giovani disoccupati non hanno alcuna speranza, anche fiscale, di accumulare alcunché. Questo è il vero paradosso della diseguaglianza. Quindi non è solo una mobilità intergenerazionale, qui c'è proprio una discriminazione. Tuteliamo il passato e penalizziamo il presente. Allora, il problema, per chi ovviamente non crede che lo Stato sia altro che il problema, appunto, nel nostro paese, è quello di argomentare di fronte però al fatto che nell'accademia, caro Alberto, tra i tuoi colleghi, tra i miei colleghi, sui media e così via, in realtà il pensiero dominante, anche tra i miei colleghi, anche tra gli imprenditori, quelli che tettano dallo Stato, il pensiero dominante non è quello favorevole a delle soluzioni individuali di mercato. Si parli della previdenza, come si parli della contrattazione, eccetera. Questa disuguaglianza è il risultato dell'interferenza dello Stato nella distribuzione della ricchezza. Però siamo in minoranza a pensarla così. Lo capisco, perché i giovani non votano ancora, perché chi applaude Landini votano finché non muoiono, crede che la soluzione sia una bella patrimonialona di Stato, mentre invece Landini sta lamentando gli effetti di come funziona in concreto lo Stato nel nostro paese. Che ne dice il professor Colombatto? Come si fa a controargomentare quando si è in minoranza su questi temi e il flusso dominante dei giornaloni, eccetera, eccetera, e dire patrimoniale, redistribuzione? Lei che dice, professor Colombatto? Grazie. Beh, tanto per cominciare, una premessa: i conti di Piketty sono sbagliati, sono stati criticati in un sacco di articoli accademici seri e anche, diciamo, divulgativi. Piketty, tra l'altro, è inutile nascondercelo, cioè, Piketty l'ha ammesso che i suoi conti erano approssimativi e che tante cose non sono state considerate. Quando noi riconsideriamo le cose come stanno, si vede che la distribuzione storicamente del reddito fra capitale e lavoro, fra virgolette, è sostanzialmente rimasta costante negli ultimi decenni. Quindi smettiamola con questa storia dei dati. La tesi centrale del libro è affondata, punto. Punto. Ma questo lo riconosce anche lui, non è che sia una visione di parte. In secondo luogo, smettiamola con questa storia di Landini che incita alla guerra di classe, alla lotta di classe. È vero che ci sono i poveri, è vero che ci sono i ricchi, è tutto da dimostrare che i ricchi abbiano rubato ai poveri. Se chi si è arricchito ha rubato, deve essere perseguito nelle sedi opportune, tribunali. Se i ricchi non hanno rubato, dobbiamo essere contenti che ci sia gente che fa impresa e che produce e che dà quindi lavoro anche a coloro che magari producono meno e non hanno tante capacità imprenditoriali. Terzo punto, saggezza ragazzi, no io la sto ascoltando, no, perché mi sembrano perle di saggezza. Terzo punto. Il terzo punto è che forse è quello più importante. Io capovolgerei e seguirei lei, Giannino, in questa strada che mi sembra quella giusta. Capovolgerei il ragionamento, e cioè: la diseguaglianza del reddito è la causa o la conseguenza? Io penso che sia la conseguenza, e cioè: se noi abbiamo della gente povera che non riesce a migliorare la propria condizione e della gente ricca che mantiene la propria condizione, di chi è la colpa? Come dice lei, è la colpa di chi non dà a questi poveri, fra virgolette, la possibilità di migliorare la propria condizione, per esempio istruzione, per esempio mobilità sociale. Fino a quando noi siamo in un sistema, come purtroppo sono venuti fuori i dati da poco, l'Italia è il fanalino di coda nei paesi OCSE per la qualità dell'istruzione. primaria, secondaria, universitaria, insomma, siamo un disastro. È ovvio che se lo Stato, perché l'istruzione oggi è statale, dà un'istruzione di cattiva qualità, chi può permetterselo si compra un'istruzione migliore, chi non può si affida a quello che dà lo Stato, e lo Stato li condanna alla povertà. Esatto. Ah, ma in compenso lo Stato assumerà 100.000 precari investendo ancora una volta sul lato dell'offerta, capisce che quella è stabile, invece la domanda di istruzione, se vuole, lo sappiamo che è importante per il futuro, caro Enrico, però come dire, non ci interessa a noi statalisti e governisti, vero? Certo, noi statalisti e governisti, l'importante è dare i soldi agli insegnanti, mica dare i soldi, dare istruzione ai ragazzi, anzi, poveri ragazzi, non facciamoli studiare troppo perché la gioventù... Ma no, anzi, invitiamoli a boicottare le prove invalsi e così via. Naturalmente, ragazzi, noi siamo proprio una barca di minoritari, cioè non dobbiamo illuderci che le nostre opinioni, però proprio per questo le affermiamo, caro radioascoltatori, perché siccome la tesi che sentite battere è sempre un'altra, interrogatevi. Adesso sentiamo per esempio come la pensa un ascoltatore, Marco da Roma, che ci telefona su questo tema della distribuzione della diseguaglianza dei redditi nel nostro paese. Marco, come la pensa? Ma io sul fatto, sulle tesi di Piketty, ho appunto i dubbi che lui stesso ha, cioè sulla validità dei dati, cioè i dati stessi. Siccome a me è capitato nella mia vita lavorativa di arrivare alla fonte dei dati ISTAT, ho trovato delle situazioni, delle incongruenze. Per esempio, a me è capitato, facendo un lavoro per conto dell'Enea all'Aquila, di trovare i dati sulle costruzioni forniti dagli stessi costruttori, insomma, tanto per dirne una. E quindi innanzitutto sulla metodologia con cui componiamo la base statistica ci sono molti dubbi. Questo vale una puntata in sé per sé, perché davvero è un problema serio su come si fanno le indagini statistiche nel nostro paese, è un problema storico questo di cui ci sta parlando Marco. Naturalmente è una questione da approfondire ed è molto tecnica, perché ovviamente è il dominio degli statistici di professione, però è vero che la qualità dei dati italiani è quella che è. Allora, adesso abbiamo il giornale radio e poi ci risentiamo pochi minuti dopo le 11. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta al Festival dell'Economia, la compagnia dei compari dei conti da belva. Carlo Alberto, Renato e Oscar Giannino, vi saluto e vi ringrazio. Siamo tornati qua in diretta, ci siamo occupati del... Ma è successo durante questa pausa una cosa meravigliosa. È successo che qui la diseguaglianza sociale almeno diventa diseguaglianza lipidica e glucidica, nel senso che la signora Renata è venuta qui in studio a portarci una sbrizzolona fantastica, fatta a mano con l'elenco degli ingredienti, sai, per eventuali allergie. Si è premurata anche di specificare che è per noi e non per quei cattivoni della zanzara che le stanno un pochino sul pilone. No, grazie Renata, grazie. Ma il punto vero è che, siccome alcuni ascoltatori rispondevano alla mia considerazione, siamo minoritari e altrove non ci sono i nostri argomenti, Ulisse dice, magari perché avete torto. Allora la signora Renata, mossa a compassione, siccome non viviamo di soldi pubblici, e allora è venuta e dice, almeno questa, per capirci almeno, la compassione. Cioè, poi ci porteranno le arance e a questo punto... No, le arance no, a dire la verità. Devo dire, tra gli sms che ricevono gli ascoltatori ce ne sono alcuni, per esempio Anna ci scrive, molti ex comunisti come la sottoscritta ed ex FIOM ascoltano Radio 24. Brava. Vuol dire che siamo oltre la lotta di classe. Siamo alla lotta delle onde radio ormai. Ecco, siamo alla lotta delle onde radio, questo è giusto, speriamo che li ascolti. Ma noi contribuiremo secondo voi a farle crescere, perché la verità è che Radio 24, per crescere gli ascolti, dovrebbe uniformarsi alle tesi Stato, Stato, Stato, capito? Probabilmente gli imprenditori non sarebbero neanche contrari, perché tanto loro, qualcuno di loro ha detto che la patrimoniale non era neanche male. Comunque ragazzi... Beh, ma sai, dipende sempre da dove arriva il tuo fatturato, eh? c'è esatto, c'è fai bene problema. A chiarire che in Italia sono troppe le imprese che hanno sussidi propri, fai bene. Alcuni poi mi pizzicano giustamente perché ho detto San Giovanna invece che Santa Giovanna. Santa Giovanna, Santa Giovanna, benissimo. A me fa ridere chiamare Giovanna d'Arco Santa, ma questo è un altro problema. Comunque oggi, ma perché tu sei appassionato di storia, studi la storia. Sì, voglio dire, la ragazza aveva qualche problema, poi è stata strumentalizzata da un mito nazionale, ecco, io la vedo così, adesso considerata una santa mi sembra un pochino eccessivo. Però detto tutto questo, chissà, avremo anche dei santi laici, magari avremo Santa Bindi adesso, o Santa Miseria, non lo so, a me sembra più Santa Miseria che Santa Bindi. Ma entriamo in un altro tema che ha a che fare proprio con la questione anche degli impresentabili. La domanda è questa: ma davvero, cari compari, è una giustizia giusta quella in cui componenti di collegi giudicanti, presidenti di collegi giudicanti, il presidente della Corte Costituzionale rivendicano il fatto che i giudici devono assumere queste decisioni chiusi in una torre burnea, coi principi del giure e senza guardare ai dati economici, alle conseguenze concrete che si determinano esclusi con alcuni sentenze. Casi qui va, no, vige il principio fiat justitia pereat mundus, ho capito, ma a me interessa il mundus che però fa una brutta fine a quel punto. Adesso non vorrei dire, va bene essere kantiani, però c'è un limite. Allora, la questione è una questione trasversale perché ha riguardato la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, ha riguardato l'espansione delle facoltà nella fase delle indagini preliminari, cioè in audita altera parte, di procedere all'esproprio di impianti, input di produzione, output di produzione, conto economico, cioè reddito, patrimonio di un'impresa, con il caso IVA, patrimonio anche dei soci azionisti, esproprio anche degli azionisti in minoranza, gli almeno il 10%, senza indennizzo, con Costituzione palesemente violata, perché la Costituzione dice che si può procedere esproprio, ma con indennizzo. Gli ammenduni sono andati dal capo dello Stato, il capo dello Stato è stato zitto. Ma allo stesso modo, senza guardare le conseguenze, si potrebbe pensare la lista degli impresentabili, esatto, consegnata a 24 ore dal voto. A parte il fatto che mi lascia perplesso la facoltà della Commissione Antimafia parlamentare di assumere poteri di questo tipo, però detto tutto senza questo, criteri, senza numeri, senza dati, così è un no, ma poi consegnando una lista e dopo due ore dicendo no scusate ne leviamo uno perché sono diventati da 17 a 16 perché ci siamo sbagliati, alla faccia della chiarezza dei criteri e così via. Leggendo oggi sui giornali che il segretario della commissione dice noi quella lista non l'abbiamo mai vista, la Bindi l'ha condivisa con chi diceva lei. Però il punto di fondo è la giustizia cieca, ma cieca non perché la voglio offendere, perché decide che lei deve solo seguire il criterio dei principi. Cosa avvenga poi per conseguenza non si sa. Allora, su questa opinione noi abbiamo chiesto di darci le sue illuminate opinioni a un professore di diritto costituzionale che io, ahimè, conosco da quando ero ragazzino, lui è più giovane di me, però anche lui c'ha qualche annetto, che si chiama Stefano Ceccanti. Stefano Ceccanti è non solo un appassionato di sistemi elettorali e quindi abbiamo condiviso molte battaglie per passare dal proporzionale al maggioritario, però insomma unisce una grande passione civile al fatto di essere un accademico. Io lo ringrazio di essere con noi a telefono. Buongiorno Stefano. Buongiorno, grazie a voi. Allora, in termini generali, lei di questa giustizia cieca, diciamo così, che cosa pensa? È del tutto coerente, sta scritto in Costituzione, discende da una corretta interpretazione della filosofia del diritto, è il principio della separazione dei poteri, ma davvero? Ma a me sembra che sia un'affermazione unilaterale di alcuni principi a danno di altri. Per esempio, la nostra Costituzione prevede negli articoli 81 e 97 anche il principio della stabilità dei bilanci, anche esatto, quello è un principio. Però il Presidente della Corte ci ha detto che vale nel caso della Robin Tax, ma non vale nel caso delle pensioni. Ecco, secondo me quell'argomentazione è un'argomentazione sbagliata, cioè che in sé un principio non valga o valga. Si possono dosare diversamente, cioè in realtà avrebbe potuto sostenere un'altra tesi per difendere la sua sentenza, cioè avrebbe potuto sostenere la tesi che si dosano diversamente nel caso di imprese, nel caso della Robin Tax, in cui quindi può prevalere di più un interesse generale a modulare gli effetti nel tempo e quindi a non determinare un buco di bilancio, può valere di meno nel caso delle pensioni, perché in quel caso c'è un problema di minimo vitale per le pensioni medio-basse. Però in tutti e due i casi stiamo bilanciando i principi, ci sono tutti e due i principi in tutti e due i casi. Questo mi sembra il punto. Quindi innanzitutto bisogna contemperare con ragionevolezza, che significa guardarli i dati però, no? Sì, esattamente, perché bisogna sempre decidere avendo coscienza delle conseguenze che si provocano, perché la torta è unica. Difendere i diritti di alcuni significa in qualche modo sacrificare quelli di altri. Si può fare, però bisogna saperlo. Sì. Stefano, però se posso, bilanciare vuol dire disporre di metriche, quindi misurabili, che consentano, certo, una stima di questo bilanciamento. Come si fa a prescindere da ogni metrica e pretendere il bilanciamento? È questo che non mi è chiaro. Ma infatti è questo il problema, perché se la Corte valuta bilanciando principi e diritti e sulla base di canoni di ragionevolezza, che è quello che fa la Corte, deve ragionare sui numeri, perché non c'è bilanciamento, non c'è ragionevolezza senza riflettere sui numeri, che non significa diventare schiavi dei numeri, no? Però i numeri devi avere in mente. I numeri sono mezzo, ma senza il quale non riusciamo a ottenere il fine del bilanciamento. Su questa questione, sì, esattamente. Su questa questione dei numeri le faccio una domanda precisa. Il presidente della Corte Crisquolo ha detto i numeri sono del governo, il governo era una parte del nostro procedimento, come faccio a prendere i numeri di una parte? È lo stesso ragionamento, tale e quale, che la Procura di Taranto e il GIP di Taranto nelle diverse ordinanze, a cominciare da quella iniziale in cui sequestrarono i parchi minerari bloccando uno degli altiforni dell'acciaieria Ilva, di fronte al fatto che c'erano delle perizie che dicevano guardate che così, però siccome interrompere un alto forno non è come accendere e spegnere una luce che tu lo riattivi l'indomani, ecco, al PM e al GIP furono avanzate tutti i numeri del caso che dicevano ma se voi prendete una decisione simile qui l'acciaieria rischia tantissimo, come poi si è visto negli anni. E anche in quel caso il PM e il GIP di Taranto dissero no, questi sono numeri di parte, noi dobbiamo assumere le decisioni in ordine alle ipotesi di reato, non sulle conseguenze dell'impresa. Questo, ragazzi, non potete chiedercelo. Come si fa ad avere una giustizia che assume decisioni economiche, professor Ceccanti, di questa rilevanza, dicendo ma i dati se ci vengono dalle parti noi naturalmente le escludiamo per definizione? Che giustizia è? No, ma infatti dunque allora dobbiamo andare per ordine. Allora, un organo giudicante deve avere un sistema autonomo di raccolta di parti perché non deve dipendere dai dati delle parti. E sì, qui c'è un paradosso che ha denunciato il giudice Cassese, cioè che fino a qualche anno fa la Corte Costituzionale aveva un ufficio che si occupava di monitorare gli effetti di sentenza e poi questo è stato soppresso, paradossalmente andando in controtendenza rispetto alla riforma degli articoli 81 e 97 della Costituzione che invece lo imporrebbero. Detto questo, le parti è giusto che presentino i dati, cioè tutti devono ragionare sui dati. Consulente tecnico d'ufficio che può intervenire e fare la voce del collegio giudicante, dico bene, normalmente. Esatto, così, per di più a me sembra che in questa vicenda i dati anche dagli atti parlamentari che ne dica la sentenza fossero chiarissimi. Il viceministro Morando sul sito federalismi.it ha dimostrato con i link alla mano che le relazioni tecniche sia di partenza sia in Parlamento quando è stata modificata l'indicizzazione delle pensioni passando dal doppio al triplo, i dati c'erano tutti. Quindi, ma la Corte Costituzionale i link su internet non li segue, da Stefano lo sa benissimo. No, attenzione però, perché nella sentenza ci sono dei passaggi in cui si dice che la relazione tecnica non motivava i dati. C'era. E quindi la relazione tecnica l'avevano vista, come no? Quindi l'avevano vista e non l'avevano letta bene. Esattamente. Allora, cioè almeno fermiamoci per un minuto, poi torniamo al professor Ceccanti a porci lo stesso problema, ma in relazione all'impatto sulla vita pubblica e politica. Cioè, prendiamo per le corna il problema della commissione antimafia e della lista dei cosiddetti impresentabili. Tra un minuto. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a cuore, il nostro è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta al Festival dell'Economia di Trento. Siamo con i compari dei conti della Belva, Carlo Aderto, Renato e Oscar, ed è collegato con noi il professor Stefano Ceccanti. Ci stiamo ponendo il problema della giustizia deliberatamente, insomma, per così dire, cieca di fronte ai dati economici e all'impatto poi delle sentenze sull'impresa, sull'andamento dei conti pubblici nel caso delle pensioni, ma anche poi su procedimenti elettorali in corso a poche ore, come sta succedendo in questa arroventatissima vigilia del voto delle regionali. Nel frattempo fatemi dire a Ulisse che ho capito nella mia sintesi, Ulisse, è vero, sono stato un po' brutale, Ulisse diceva le vostre tesi non si possono esaurire nella discussione di 5 minuti, non ho detto che avete torto, grazie Ulisse, effettivamente è così, e quindi come vedi ti do atto che nella mia sintesi ero stato un po' troppo brutale. Sentiamo il ministro Padoan che cosa aveva detto in ordine a come la Corte Costituzionale aveva assunto la sua decisione sulle pensioni. Nel rispetto pieno dei principi che stanno dietro la sentenza della Corte Costituzionale, il governo sta lavorando a una soluzione che minimizzi l'impatto sulla finanza pubblica e che permetta di continuare a rispettare, come è già scritto nel DEF, tutti i parametri di finanza pubblica. Riguardo alle cifre che lei mi ha citato, con tutto il rispetto, sono tante delle cifre che ho letto in questi giorni e mi congratulo per l'enorme fantasia, perché non c'è nulla di tutto ciò in quello che stiamo considerando, quindi vi chiedo di aspettare le decisioni, così potremo discutere di numeri veri e non di numeri immaginari. Allora, questa dichiarazione di Padoan, io l'ho mandato in onda perché bisogna riconoscere che anche il sistema dell'informazione sui numeri relativi alle conseguenze sul bilancio dello stop biennale della perequazione da tre volte il minimo in su e poi inglobando gli effetti di una situazione totale negli anni successivi, anche l'informazione ha rivelato di utilizzare più fantasia che realtà, perché i numeri c'erano, solo che siamo arrivati a volte a fare dei conti, si è letto su grandi giornali 24 miliardi, quindi autoflagelliamoci anche noi giornalisti. Ma a questo punto la domanda che io faccio a Stefano Ceccanti è: lei della lista degli impresentabili dei poteri dell'antimafia di procedere a questa redazione di una lista di segnalazioni con incidenti fino all'ultima ora, con pareri discordanti dei membri della commissione secondo i quali non è affatto uscita dal collegio ma solo da una parte del collegio con il presidente Bindi, che cosa pensa? È vero che era stato votato un codice di autoregolamentazione dal quale il presidente Bindi dice noi per dovere a questo punto dobbiamo farla questo tipo di segnalazione, ma lei che pensa? È uno scarno codice di autoregolamentazione di 4 articoli. Questo codice, l'articolo 4, dice che la Commissione fa una generica attività di monitoraggio sulle liste elettorali e all'articolo 3 poi dice che quando i partiti decidono comunque di presentare dei candidati anche che rientrino in quelle caratteristiche, i partiti devono avere il tempo di spiegare perché l'hanno fatto, perché appunto è un codice di autoregolamentazione, non è un obbligo di legge a tenersi a quelle indicazioni. Non c'è appunto nessuna procedura per costruire una lista, infatti questi codici sono stati praticati per varie legislature ma mai si è fatta una lista di questa natura, quindi non ci sono regole per la formazione della lista, cioè non c'è scritto chi lo deve fare, perché non si pensava di dover fare una lista. Ora se uno decide di fare una lista di questa natura, ammesso che si ricavi da quei poteri di monitoraggio dell'articolo 4, deve però stabilire una procedura chiara. Chi fa un'istruttoria, chi non la fa, il ruolo della Presidente della Commissione, il ruolo dell'Ufficio di Presidenza, il ruolo dei membri della Commissione parlamentare, il tempo dei partiti per spiegarsi, il tempo non c'è di stata, non è stata seguita nulla. Questa procedura. Assolutamente. E poi la trasparenza delle metriche, dei criteri, ma come si fa a sparare una lista senza essere accountable, cioè responsabili dei criteri identificati? E infatti qui siamo completamente fuori legge. Questa è una cosa lei dice fuori legge. Sì. Cioè, perché appunto non c'è nessuna norma che prevedeva la formazione di una lista. Non c'è nessuna procedura né niente, quindi siamo di fronte all'arbitrio della Presidente della Commissione. Ma professor Ceccanti, la decisione di redigerla questa lista è stata assunta con un voto a maggioranza che risulta all'interno della Commissione Antimafia? Perché io a questa domanda, io lo chiedo a lei perché a questa domanda purtroppo, leggendo i giornali in questi giorni, non ho trovato una risposta. No, a quanto capisco la Presidente sostiene che questa scrittura della lista è implicita nei poteri di monitoraggio dell'articolo 4, però io dall'articolo 4 non ricavo questo e in ogni caso se si riteneva di dover estrarre questi poteri dall'articolo 4 bisognava stabilire una procedura per costruire la lista, questo è il problema, e invece a quanto pare girano le più varie interpretazioni su come si è costruita questa lista da parte dei presidenti dei membri della commissione antimafia. Quindi in dubbio non era il caso di astenersi e come dire, prendere il rischio che qualche impresentabile venga comunque votato dalla sovranità popolare, ma non interferire così gravemente in un processo di selezione della rappresentanza, Stefano. Sì, infatti, e appunto quello che stupisce è questa forzatura fatta a ridosso del voto che non consente né alle forze politiche né ai singoli di replicare a questo e neanche di coinvolgere i membri della stessa commissione antimafia. Faccio un'altra domanda formale. Dal punto di vista delle procedure e delle norme parlamentari, a fondamento oppure no, secondo lei, Ciccanti, la tesi sostenuta da Grasso, Presidente del Senato, la Boldrini ha preferito non intervenire, però il Presidente del Senato ha detto io non avevo facoltà di intervenire su quello che la Commissione Antimafia stava facendo. Se è vero quello che dice lei, secondo me è come dice lei, e cioè che da quello scarno codice di autoregolamentazione non si deduce affatto né l'automaticità né tantomeno la decisione su come redigerla quella lista, in che modalità. Se era così, i presidenti delle Camere avevano facoltà di intervenire secondo lei oppure no? Secondo me potevano avere quantomeno una facoltà soft di intervenire in termini moral suasion, cioè di porre il dubbio se la commissione fosse legittimata a fare questo oppure no. Per di più, secondo me, siccome quella è una commissione bicamerale, il senso di quell'articolo 4, l'attività di monitoraggio, è che si fa questa attività di monitoraggio, dopodiché si dovrebbero mandare le carte ai presidenti delle Camere, perché esatto, se sono cose veramente importanti, i presidenti delle Camere dovrebbero rendere dotti tutti i parlamentari, anche i membri non della commissione, della gravità delle situazioni che ci sono per prendere coscienza e per trovare dei rimedi. Quindi diciamo, al di là di quello che potevano fare, secondo me la vera responsabilità della Commissione si esercita poi verso l'intero plenum di Camera e Senato e quindi attraverso i loro presidenti. Sono d'accordo, ohimè, ma queste considerazioni di ordine formale, cari ascoltatori, ve le diamo nella speranza che voi non crediate che stiamo difendendo candidati di liste di qualunque schieramento che hanno pendenze o che sono discutibili perché con il loro trasformismo stavano a destra, sono andati a sinistra o viceversa, ma perché la democrazia e la libertà vivono di regole chiare, applicate nella chiarezza, e quando ci sono interventi istituzionali a poche ore dal voto senza che questa chiarezza ci sia, la mia opinione è che bisogna preoccuparsi molto, senza confondere questo con la difesa di chi ha titoli più o meno elevati che ciascuno giudica poi nel voto della impresentabilità dei candidati, perché non ci fate passare per chi sta difendendo i trasformisti o coloro che hanno procedimenti. Qui la questione è che siamo di fronte a una cosa senza precedenti nella storia della Repubblica. Ciccanti, però, segnerà un precedente secondo lei oppure no? Perché a questo punto a ogni elezione si ripete questo tipo di cosa. Sì, ma io penso che nell'istituzione parlamentare ci stia lì a fare, a differenza di molte altre, un ruolo di trasparenza rispetto ai cittadini, quindi qualsiasi cittadino dovrebbe ora poter andare sul sito della Commissione Bicamerale Antimafia, leggere i resoconti, capire perché e chi ha deciso di fare questa lista, quali sono i criteri e perché sono state inserite alcune persone anziché altre, perché altrimenti non è un'istituzione parlamentare, altrimenti è un comitato di salute pubblica, capisce? È una specie di comitato rivoluzionario, di consiglio della rivoluzione che decide chi decapitare e chi no, senza vincoli di legge. Questo è il problema, cioè, altrimenti non è un organo parlamentare. Tutto il resto poi, chi ci è capitato, chi non ci è capitato, se era motivato Tizio, Cairo, destra, sinistra, non c'entrano nulla. Il problema di fondo è che questo non è un metodo di azione da Parlamento, e quindi io spero che sia un esempio nel senso che mai venga ripetuta una cosa del genere. Ribadisco una cosa, ma le faccio una domanda, anche qui formale. L'interpretazione secondo la quale, alla luce della sentenza di Cassazione di pochi giorni fa per cui la competenza sulla legge Severino del giudice ordinario e non più del TAR, della decadenza a quel punto della pronunzia che era attesa per ottobre della Corte Costituzionale, a cui i TAR avevano delegato l'interpretazione sull'applicabilità o meno e sulla costituzionalità o meno delle norme difformi che nella legge Severino ci sono per la decadenza, condanne passate in giudicato rispetto a quelle di primo grado tra politici nazionali e politici locali, cioè il caso De Luca. Alla luce di tutto questo, è vero secondo lei che secondo le leggi italiane la decadenza dell'eventuale De Luca eletto a questo punto per legge Severino spetta inequivocabilmente al Presidente del Consiglio, perché sui giornali gli elettori leggono che alcuni dicono non spetta a lui. B. È vero che a quel punto il Presidente del Consiglio deve procedere a questo atto prima che passano i 25 giorni che l'eventuale Presidente eletto, ma che è in decadenza, De Luca, formi la Giunta e individui il Vicepresidente che a quel punto per tutto il tempo necessario fino alle impugnative di fronte al giudice ordinario governa in sua vece, oppure può aspettare i 25 giorni e chi sceglie di votare De Luca, malgrado tutto il casino, si può aspettare che ci sia una Giunta, perché gli elettori campani vorrebbero una decisione chiara su questo. Lei cosa dice agli elettori campani? Dunque, andiamo per ordine. Gli elettori votano, sì. Mettiamo che vinca De Luca, sì. Esce fuori dalla Corte di Appello un foglio di carta con proclamati, sì, De Luca e i consiglieri. Questo foglio di carta prende due strade. Strada numero uno, che è quella della sospensione, che non stiamo parlando di decadenza. La legge Severino prevede nel caso che De Luca sia sospeso per 18 mesi. Sospeso, sì, c'è una cosa temporanea che poi ritorna. Allora, qui questo foglio di carta deve fare 7 passaggi su questa prima pista. Sono due piste. Il foglio prende due piste. Una copia del foglio deve fare 7 passaggi, senza limiti di tempo predeterminati. Passaggio numero 1 va al tribunale. Passaggio numero 2 dal tribunale va al prefetto. Passaggio numero 3 dal prefetto va a Renzi. Passaggio numero 4 da Renzi va Alfano, passaggio numero 5 da Renzi va al ministro degli affari regionali o chi per lui, perché in questo momento è vacante. Dopodiché Renzi prende il decreto e passaggio numero 6 torna al prefetto, passaggio numero 7 torna al consiglio regionale che prende atto che va sospeso. Questo è, non ci sono date. Cioè nella legge non ci sono date. Quindi tutti questi 7 passaggi è coerente che possano anche prendere il mese entro il quale, cioè, a quel punto De Luca cosa può fare? Aspetti, poi c'è il foglio, prende l'altra via. L'altra via è: arriva al consigliere anziano che deve convocare entro 20 giorni, ma lo può fare anche prima il consiglio, certo, perché lo può fare anche dal giorno dopo. E passaggio numero 2, si riunisce il consiglio, De Luca nomina una giunta tra cui un vicepresidente. E poi c'è una seconda seduta in cui viene data comunicazione. Quindi da una parte ci sono 7 passaggi e dall'altra 3. A casa mia 3 è meno di 7 e quindi fanno prima in quei 3 passaggi, che fatto sono con le date precise, entro 20 giorni la convocazione, entro 10 questa comunicazione. E quindi diciamo, da questo punto di vista va così. Quindi secondo me arriverebbe prima De Luca a nominare il vicepresidente che non Renzi a sospenderlo. Poi c'è l'altra questione. Alla Corte Costituzionale è giacente, a parte che è incardinata per metà ottobre, ma è giacente non solo la domanda di un giudice amministrativo che potrebbe ritenersi non più competente, ma c'è anche la domanda di un giudice ordinario, perché invece in Puglia si erano già orientati secondo quanto ha deciso poi la Cassazione. Quindi la Corte potrebbe comunque pronunciarsi a ottobre di fronte, esatto, all'istanza di un giudice ordinario a cui si rivolge De Luca potrebbe fare esattamente quello che ha fatto la Corte d'Appello di Bari, cioè sospendere la sospensione. Quindi De Luca si potrebbe trovare sospeso per un mesetto, ma non di più, in attesa della Corte. Se poi la Corte dà ragione a De Luca è rimasto sospeso solo per un mese e tutti vivono felici e tranquilli. Altrimenti se la Corte per 18. Disapprova, c'ha 18 mesi di sospensione, ma dopodiché ritorna in carica. Allora, io spero che noi abbiamo dato un'informazione in qualche misura chiara ai nostri ascoltatori. L'incertezza dei tempi e delle procedure c'è, vedete voi, anche questo è un inedito nella politica italiana. Certo è che la violenza senza pari di lotta all'interno del PD, anche quella è senza precedenti, perché stiamo parlando di un'iniziativa istituzionale che, come abbiamo visto, ha delle basi fragilissime, non è trasparente ed è ovvio che è una resa dei conti sanguinosa, sperando che con questo strumento, insomma, il segretario del PD e il Presidente del Consiglio becchi una ferita violenta, non solo De Luca. Ora, io non faccio il fan, dico che da vecchio credevo di averne viste tante, invece scopro sempre modi nuovi attraverso cui i partiti si uccidono al loro interno di fronte a tutto il mondo. Va bene, ringraziamo il professor Ceccanti e torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta 11.38 prima dal Concilio Tridentino, Carlo Alberto. Renato. E invece mi dispiace perché io Piazza Pasi mi sento a casa mia, perché dovete sapere, dai, che diccela. Una delle leggende qui a Trento è che sotto questa piazza, sì, è ancora nascosto il tesoro del Barbazzo. Tesoro del Barbazzo. Chi era questo Barbazzo? Era un re dei Rezzi, quindi stiamo parlando del V secolo dopo Cristo. Non c'erano ancora le api. Che è prigioniero qua, però insomma ha nascosto il tesoro. Siccome si chiamava Brenno, siccome mio figlio si chiama Brenno, per me questo è un luogo. Siamo in un luogo sacro. Grazie, Trento, di ospitarci. Ogni carrafone è bello a papà suo. Allora, noi abbiamo mucchi di ascoltatori che ci dicono: cavolo, quanto vi piace De Luca. No, cari ragazzi, perché in altre trasmissioni, nel corso della versione di Oscar, ho spiegato come qualmente, secondo me, non il PD era meglio che non candidasse De Luca, che aveva questo problema. Era meglio che il PD nelle liste collegate per De Luca non avesse un numero di trasformisti vicini ai camorristi ed ex di destra che c'ha. Quindi io sul caso De Luca mi sono già pronunciato. Il problema è che non mi può per questo piacere un'iniziativa istituzionale come quella senza precedenti, che travolge oramai il significato politico stesso di queste elezioni. Di questo stiamo parlando, perché questo, come liberale, mi fa paura l'idea che siamo in presenza di una roba che nessuno ha capito in base a che cosa nasce, da chi è stata davvero decisa. Non ci sono i verbali consultabili sui criteri, come l'hanno fatta sta lista, perché chi l'ha decisa, perché arriva 24 ore prima. Queste cose qua a me preoccupano, a prescindere di De Luca e del PD. Poi il risultato lo farete voi votando. Sentiamo Luca d'Arezzo che vuole intervenire su questo. Luca, come la pensi tu? Allora, buongiorno, intanto sono onorato di parlare con lei, Oscar. Figuriamoci. Volevo dirle, e meno male che la democrazia deve vivere di regole chiare. Abbiamo sentito il professor Ceccanti che ci ha fatto la sfilza dell'iter di quello che dovrebbe succedere nel caso in cui De Luca dovesse essere eletto a presidente di Regione Campania. Ora, io questa cosa la trovo una situazione allucinante, cioè è chiaro che questo è il frutto di politici che non hanno né arte né parte, sono delle leggi non chiare in assoluto, e non mi rendo conto come poi un essere senziente, io per esempio che dovrei andare a votare, come faccio a votare queste persone? Cioè non ci trovo una situazione logica. Io non so se a lei fa lo stesso effetto. No, no, io devo dire la verità, io attualmente sono un non votante, lo dichiaro, perché non avrei di che votare, e devo dire, di fronte a questo trasformismo poi mi passa la voglia ancora di più. Per esempio, alcuni nostri ascoltatori, Manu per esempio, ci dice: vabbè, però chi vuole ha un'alternativa secca a questo sistema, basta votare il Movimento 5 Stelle e il problema è risolto. Ah, ci dice, questa è bella, questa è bella. Vabbè, sì, però voglio dire, è un'opinione di alcuni dei nostri ascoltatori. Che non ha mai l'abitudine di fare liste di proscrizione. Perfetto, vabbè, però detto questo, noi diamo atto che i nostri ascoltatori hanno opinioni diverse. Io sono molto curioso di vedere, ne parleremo lunedì alla versione di Oscar e dalla mattina con Alino Milan a leggere i risultati del voto, gli italiani come si regoleranno, quanti si asterranno, quanti voteranno 5 Stelle, quante ne vince davvero Renzi e quanto no. Detto tutto questo, adesso, verso la conclusione, noi affrontiamo un'altra di queste decisioni molto discutibili per noi liberali, assunte questa settimana dal giudice di Milano, che ha deciso che Uber Pop fa concorrenza sleale a troppo basse costi. Ma come si permette? Ma come si permette? Allora, intanto un file di voci raccolte tra tassisti e Uber Pop. Una situazione lavorativa disastrosa, facciamo soste cittadine di 6-8 ore, soste aeroportuali di 12 ore per singola corsa. Quando guadagni 80 euro al giorno sei fortunato, e sto mascalzone, questa cricca, vuole rovinare ci vuole far morire di fame, come in America. Non siamo una lobby, quelli sono lobby, la banca è lobby, le banche sono le lobby, i petrolieri sono lobby. Prego, non hai paura per dare i ricchi. Non ti nego che alcuni di noi sono terrorizzati, hanno paura, abbiamo saputo che hanno fotografato delle macchine, delle targhe, sappiamo chi, come vi chiamate. Io capisco, perché ho degli amici taxisti, che la situazione possa essere per loro difficile, però non è questo il modo. Allora, queste sono voci che abbiamo raccolto. Noi abbiamo un ospite con cui ci confrontiamo, l'ospite è Nereo Villa, che è il segretario generale del Satam CNA, Sindacato Artigiani Tassisti di Milano e Provincia. Grazie di essere con noi, a Nereo Villa. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sentiamo ancora un ascoltatore, Giorgio dalla provincia di Pavia, che ci chiama su questo. Giorgio, prego. C'è Giorgio collegato? Eccoci qua, Giorgio, dica pure, dica la sua. Sì, buongiorno. Ma niente, io, come avevo accennato, secondo me la metterei su questo piano. Se questa è la sharing economy, io non ci sto, perché secondo me questi non sono veri posti di lavoro, sono posti di lavoro fittizi. Questa è gente sfruttata da questa multinazionale, e quindi comunque il guadagno grosso ce l'ha sempre questa multinazionale. Questa qua è gente, possiamo dire, forse disperata, che ha bisogno o di un secondo lavoro o proprio di un lavoro perché non lo trovano, e quindi, è meglio che non lavorano. Giorgio, no, questa è la sua opinione. Credo che sono sfruttati. Giorgio, credo che sia molto diffusa. Adesso tentiamo di spiegare come funziona Uber, perché capisci, non li prendono nei porti come faceva la Royal Navy e li portano a bordo sulle navi militari a forza in catene. No, questi sono dei volontari, e sulla ripartizione dei proventi, anche questo, lei ha detto, sono sfruttati perché si ripiglia Uber i soldi, eccetera, eccetera. Anche su questo c'è un ragionamento. Da fare. Allora, Carlo Alberto, come la mettiamo? Ha ragione il giudice, secondo noi, per il quale in realtà è lo stesso mestiere dei taxi regolati, quindi siccome quelli non sono regolati facciamo il bando da tutta Italia, oppure in realtà è un mestiere diverso e il giudice forse non ha avuto una buona rappresentazione della cosa su cui sta intervenendo? Io mi taccio d'ora in poi, vi dico solo che da anni mi occupo delle questioni della regolamentazione di un'offerta pubblica più aperta dei servizi pubblici di trasporto, e ai tassisti ho sempre detto: i politici che su questo non intervengono sono due volte colpevoli. Prima, non capiscono che le offerte sono diverse e non concorrenti, ampliano il quadro necessario. B, un quadro di liberalizzazione vera pretende di non dimenticarsi i soldi che voi avete speso per la licenza. Quindi, intervenire su questo, un politico dovrebbe dire: facciamo il calcolo degli anni residui di ammortamento di quello che ancora non vi è rientrato per gli anni che avete fatto al vostro mestiere di tassista rispetto alle tante soldi che avete speso per la licenza, e in questo non vi creeremo un danno. Chiusa la mia parentesi, che dici, Carlo Alberto? Intanto devo chiarire un aspetto, che l'aumento dell'offerta di trasporto di questo genere qua allarga la torta del business dei tassisti, perché convince sempre più persone a rinunciare all'auto personale e affidarsi in maniera intelligente al mercato. Quindi l'equivoco fondamentale, che è tipico, diciamo, del modello superfisso, è che la quota di trasporto privato cittadino è fissa e dobbiamo soltanto dividercela fra noi tassisti regolari e questi pirati di Uber. Questo è un falso assurdo. Lo abbiamo visto per esempio con i modelli di car sharing: tutta l'offerta di mobilità territoriale innovativa aumenta la domanda e quindi costituisce un elemento di sostituzione di che cosa? Dell'auto privata, che è giusto che venga sostituita perché è inquinante, perché è inefficiente, perché come dire, ci riporta invece a un modello rigido e non moderno. Quindi questa premessa, che dovrebbe in qualche maniera essere dirimente rispetto all'approccio dei tassisti, che dicono ci rubano il lavoro, proprio il principio degli immigrati, no? Ecco, dato il lavoro quantità fissa, qualsiasi aumento incontrollato dell'offerta, come dice il giudice di Milano, va prevenuto perché non è titolato alla licenza. Entro nel merito invece di che cosa faccia Uber e cosa fanno i tassisti. Uber, come un qualsiasi centralino, semplicemente si limita a far incontrare domande e offerte, ma non trasporta nessuno. Uber è una piattaforma forma di mercato che fa incontrare domanda e offerta di servizi. Alcuni casi sono, in alcuni casi sono servizi magari fatti da persone senza licenza, ma non è per niente garantito che questo avvenga. Peraltro un tassista può partecipare a questi marketplace, dimostrazione è il fatto che proprio a Milano i tassisti intelligentemente hanno capito la lezione e si sono organizzati in un modello che è MyTaxi, che è assolutamente simmetrico a Uber, dimostrando quindi che quell'attività è un'attività terza e facilitante del lavoro dei tassisti. Questo, se vuoi, è il problema essenziale. E quindi c'è un dubbio che il giudice non ha capito della separazione dei mercati, cioè esatto. Il mercato in cui opera Uber, il mercato dell'intermediazione delle opzioni di acquisto e vendita di un servizio di trasporto privato, e invece il mercato in cui operano i tassisti è un mercato separato, che è l'erogazione di tali servizi, che può avvenire da un tassista o da un altro autista privato. Allora, abbiamo un minuto di pausa e poi naturalmente Nereo Villa, il segretario del sindacato artigiani taxisti di Milano e Provincia, sentiamo invece la sua opinione, il contraltare su questa questione di Uber e della pronuncia dei giudici di Milano, che ripetiamo, se non viene ribaltata, e il bando per Uber Pop in tutta Italia, ma guardate che si inizierà ad applicare a tutti i diversi settori della sharing economy, al B&B rispetto ai bed and breakfast e così via. Cioè noi entriamo in una prospettiva nella quale tutto ciò che è sharing sarà dai giudici valutato, si difende chi ha la licenza, si difende chi ha la concessione. E questo è quello che vogliamo? Tra un minuto sentiamo cosa ci dice Nereo Villa. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci tornati qui verso la conclusione dei conti della belva, diretta dal Radio Festival dell'Economia, chiamiamolo così, di Trento. I compari Carlo Alberto, Renato. Siamo al punto della sentenza del giudice di Milano che bandisce a livello nazionale, se non verrà ribaltata, Uber Pop, e poi chissà che cos'altro. Vi abbiamo detto la nostra, abbiamo sentito una telefonata di chi è contro Uber. E come la pensa Nereo Villa, il segretario generale del SATAM CNA, sindacato artigiani tassisti di Milano e Provincia? La parola di poter intervenire, innanzitutto volendo sottolineare che dopo circa 2 anni dall'uscita di Uber Pop e a 1 anno dalle manifestazioni dell'anno scorso, combinate con un fermo autorizzato l'11 giugno, la categoria ha scelto la strada del Tribunale Civile per dimostrare quello che era stato, cioè la concorrenza sleale di Uber. Quindi questa è una cosa importante che trova riscontro poi nella sentenza che è arrivata, che è argomentata in ben 19 pagine. Teniamo conto che la contestazione si avvale di una documentazione di circa 2000 fogli e le controrepliche di Uber sono altrettanto numerose e pesanti. Difficile quindi condensare in un istante e in poche parole quello che il giudice ha ritenuto essere una concorrenza sleale. Ma di fatto ha comunque valutato attraverso le osservazioni, attraverso le controrepliche, che comunque Uber fornisce un servizio illecito perché recluta, coordina e gestisce dolosamente autisti che esercitano attività illecita e non autorizzata. Di fatto è, per dirla con parole dei tassisti, l'abusivismo tradizionale assurto al ruolo di industria, dove c'è qualcuno che supera la simmetria informativa, la non riconoscenza, collegando la domanda con l'offerta e traendo da questa un beneficio che si aggira attorno al 20%. Naturalmente tutto tracciato dal punto di vista bancario, ma tutto ottenebrato da una cortina che passa dall'Italia all'Olanda, alle Bermuda e a Delaware. Questa è la situazione che è stata messa in evidenza al giudice, e il giudice ha reputato che per svolgere attività professionale di tassista nel nostro Stato bisogna avere la licenza del taxi ed essere tassista. Punto. Avrebbe ragione se fosse esattamente il mestiere del tassista l'unica cosa che esaurisce un'offerta pubblica di trasporto. La nostra opinione, minoritaria, ma che mi auguro ispirerà la posizione di Uber di fronte al giudice, è che invece si tratta di un servizio diverso. Dopodiché, se la vostra posizione resta questa, io lo capisco. La domanda è: che cosa serve per fare un'offerta e una domanda aggiuntiva di tipo diverso? si può pensare che siamo il paese migliore del mondo perché abbiamo trovato la soluzione? Siete convinti di questo? Benissimo, abbiamo un'opinione diversa. Tu che dici, Carlo Alberto? Ma io dico che le proteste dei tassisti li capisco, perché si sentono minacciati. In realtà dovrebbero capire che questa opportunità è un'opportunità che viene loro offerta, e penso che abbiano imparato la lezione di rendere molto più accessibili e fruibili i loro servizi, che sono importantissimi, fondamentali per garantire la mobilità. Ma stiamo scherzando, qui state a difendere il mestiere del tassista, non il modello organizzativo con cui oggi questa offerta viene realizzata. Tutto qua, questo è un po' il problema. Va bene, noi continuiamo a occuparcene, non la pensiamo radicalmente sul a favore della sentenza, e speriamo che i tassisti capiscano che io sono anche per un riconoscimento del valore della loro licenza. Ehi, ma qual è il non si può questa settimana? Questa settimana ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Sugli studi di settore che erano usciti dopo, quando i bilanci erano già approvati. E come è finito? La conseguenza è che, essendo usciti dopo gli studi di settore, rinviamo anche la presentazione di Unico. Questo è lo Stato italiano, o vi frega oppure dice ti frego più avanti. Comunque continuate con Radio 24, grazie, qui siamo andati in diretta da Trento, grazie dai compagni dei Conti della Belva.